manovrare notizie grosse e piccole. Se notizie non ci sono, so lavorare di fantasia. Alessandro Milan, l'asso della manica dell'informazione. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Tutta sta gnocca che c'è adesso nel PD, dove l'ha trovata? Su Twitter? È una domanda legittima, sana, lecita, che crozza a Bersani a posto a Renzi, eh? Possiamo anche risentirla se non l'avete colta bene, magari sulla sigla vi è sfuggita. Cioè, crozza Bersani, chiede una cosa alla quale vorremmo una risposta precisa. Ma Renzi, tutta sta gnocca che c'è adesso nel PD, dove l'ha trovata? Su Twitter? Non lo so. Voglio subito chiederlo a Paola Saluzzi. Mi sembra una domanda molto insolente. No, ma perché fai la giornalista? Lo saprai te, fai la giornalista, lo saprai. Mi concentro invece sull'asso nella manica dell'informazione a Lino Milan. Quella è una sigla che ci ha mandato un ascoltatore e vorrei... È stato molto bene. Se mi manda l'indirizzo gli spedisco anche, non so, una bottiglia di vino per ringraziarlo. Ecco, ma anche due, ha fatto molto bene. Beh, non so se su Twitter si trovi tutto questo, ma insomma... Comunque la battaglia continua. La battaglia continua. Va bene, abbiamo iniziato così, un po' su di giri, come dire. Sono le 6:34 minuti, questo è 24 mattino. C'è Miriam Lucchetti in redazione che oggi sbuffa un po', non lo so, è un po'. È così. Vabbè, ma è mercoledì, siamo a metà settimana. È mercoledì. Uno sbuffo fa bene. È mercoledì. Io sbuffavo un po' perché grande novità oggi al Corriere della Sera, formato tabloid. Talmente una novità che non c'era in Mazzetta. Siamo dovuti andare a comprare. Una novità un po' difficile. Siamo dovuti andare a comprarlo in edicola. In fretta e furia hanno detto: mi ha mandato 10 copie. E siamo a Milano. Arrivano tutti, ma il Corriere no. Vabbè. Comunque, saluto anche Peter Bescapè in regia, il nostro alpino. Apriamo subito il Parlamento perché insieme a Paola Saluzzi, come sapete, l'accoppiata vincente. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. L'accoppiata vincente è quella con Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Caro direttore, tu essendo giornalista e in più direttore, avrai una risposta al crozza Bersani, no? Instagram, giusto, Instagram, perché almeno lì si può anche vedere meglio. Perfetto, Luca Dini è sempre il direttore, la domanda perfetta. E vedi. Allora, oggi però è arrivato poi il Corriere, perché il nostro prode Carmelo Lauricella è stato spedito con la mancetta di 1,50 euro in edicola a prenderlo, e quindi è tornato e vi ha dato anche il resto di 10 centesimi. Facevo come i nonni, gli ho dato 1,50 euro, diceva, e ti bastino fino a venerdì. E ho letto questo editoriale, sono sconvolto, lo sto leggendo con voi, di Ferruccio De Bortoli, quindi il direttore è uno che non firma molto spesso, e oggi esordisce così. Sentite cosa dice di Matteo Renzi, Ferruccio De Bortoli inizia: devo essere sincero, Renzi non mi convince, soprattutto per la gestione del potere. E poi snocciola una serie di insomma, dice: una personalità egocentrica è irrinunciabile, ma quella del premier è ipertrofica, ha energia leonina, ma la sua squadra di governo è di una debolezza disarmante. Il sospetto diffuso è che siano stati scelti per non fare ombra al premier. Fa un profluvio di tweet che non annulla la fatica di fare un buon decreto. Circondarsi di toscanità fa venire dei dubbi. E poi sentite: il patto del Nazareno con Berlusconi, sarebbe opportuno conoscerne i contenuti per togliergli quell'odore stantio di massoneria. Ma che è, Luca Dini? È sicuro che ti abbiamo portato il Corriere Vero. Sì, guarda, l'ho riletto. Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera. Ma che ne pensi tu di Renzi, Luca? Effettivamente questa accusa di essere una personalità forse un po' troppo egocentrica c'è, eh? Ma guarda, quella è un'accusa francamente che lascia il tempo che trova, nel senso che è piena la storia di personalità egocentriche che a volte hanno fatto disastri e a volte hanno fatto cose molto buone. In genere comunque sono quelle che hanno lasciato un segno, quelle non egocentriche o deboli molto spesso non lasciano nulla. Non lasciano. Secondo me alla fine, sai, come sempre bisogna giudicare fra un po' di tempo e dai risultati. Mm. Però caratterialmente è un po' la storia non sia ancora qua, cioè, questo certamente, insomma, bisogna no, ma proprio dal punto di vista della personalità, non so se ne hai mai, no, sì, una volta l'hai intervistato su Twitter, è vero, l'hai intervistato con le 10 domande su Twitter tu, da sì. Sono Luca Dini. Vabbè, personalmente non so, l'hai mai incontrato? Sì. Non so, vabbè, penso che continuo a pensare che sia molto migliore di come viene rappresentato. Abbiamo il direttore renziano finalmente per recuperare da Ferruccio De Bortoli. Abbiamo subito posto una par condicio. No, ma non voglio dire, cioè, poi i limiti del governo, delle cose che succedono, cioè, la situazione che è quella che è, non è che voglio cancellare, cioè, i problemi, però dico soltanto che a questo sono abbastanza convinto, viene, cioè, c'è una convinzione diffusa soprattutto tra i giornalisti che Renzi sia una persona peggiore di quello che secondo me invece è. Va bene, tu Paola che ne pensi? Anche tu l'hai incontrato? Stiamo parlando del carattere. Io l'ho incontrato dal sindaco di Firenze, sì, quando andai a vedere Tutto Dante con Roberto Benigni, straordinario, in Piazza Santa Croce. Che dire, l'editoriale del direttore è duro, dice, per fortuna che siamo in democrazia, no? Quindi le critiche si possono fare ed è legittimo farle. Poco prendi il potere e cerca di cambiare qualcosa, ti troveranno subito anche un difetto, nel senso che il problema non è il difetto del carattere, ma il difetto sarebbe nel non riuscire a cambiare qualcosa. Sì. E quindi su questo ha ragione perfettamente il direttore Dini, bisogna dare tempo, cioè il tempo è, come si suol dire, galantuomo, e ci dirà se tutta questa energia, questa forza leonina servirà a cambiare le cose. Dopodiché è facilissimo criticare, e probabilmente è più facile criticarlo perché 24 ore su 24 è sotto osservazione. Scrive tanti tweet, benissimo, però è un modo nuovo di comunicare. Certo. Aspettiamo anche la comunicazione dei fatti realizzati e dare però il tempo a una pianta di crescere. Sì, perché se no, ma no, è chiaro il carattere è il carattere. Il carattere è il carattere. Certo. Io non sarei troppo, non è mio fratello, non è mio marito, allora siamo. Quello no. Però insomma, vabbè. Quanti tweet si possono scrivere nel tempo di una cena elegante, dai. E soprattutto perdi tempo con la cena elegante, forse è tempo rubato a Twitter, in alcuni casi molte volte. Comunque insomma, il nostro Forchielli, sapete che è un mito, Forchielli, ieri mi ha chiamato, mi ha detto: Alino, qua altro che sblocca Italia, rischiamo lo sbrocca Italia. Questo mi ha lasciato questo messaggio prima di partire per gli Stati Uniti, ma lunedì è stato protagonista, l'hanno fatto parlare un po' poco, ma Piazza Pulita di Formigli ne ha dette un paio, sentite Forchielli. Noi 25 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa, nel passaggio dal GATT al WTO, quando abbiamo globalizzato il mondo, abbiamo lasciato le palle dentro lo sportello e non ce ne siamo accorti, e adesso la paghiamo. Direi che l'immagine è partito dal WTO, il GATT, le cose, ma poi l'immagine era abbastanza efficace, insomma, per dire che ci siamo fatti un po' del male. Ancora Forchielli sull'articolo 18. L'articolo 18 è come un morto nella bara che muove un dito, che viene riportato a pronto soccorso. E di per sé non crea né occupazione né disoccupazione. Ecco, questa però devo dire è una grande verità. Io, caro direttore, cara Paola Saluzzi, non capisco, cioè, quante volte abbiamo assistito a questo dibattito sull'articolo 18. Luca, ma come se fosse questo il problema del creare posti di lavoro, del fare impresa, dell'avere un dignitoso posto di lavoro, un salario dignitoso. Cioè, da dove si parte? Dall'articolo 18. Luca. È sempre così, sì, è un simbolo, si fa la battaglia su un simbolo, poi non è, sono perfettamente d'accordo, il problema è che il mercato del lavoro è un cadavere, e non è l'articolo 18, certo, anche incaponirsi per difenderlo, come se fosse l'unico. Ma sì, adesso da una parte l'articolo 18, dall'altra parte no, l'articolo 18. Ieri abbiamo avuto qua Farinetti che ha detto l'articolo 18 così com'è va anche bene. Due mesi fa il Fatto Quotidiano aveva detto l'articolo 18 è da smantellare. Paola Saluzzi. Sai che cosa mi sembra questa riforma? Voi ne siete esenti, sia tu che il direttore, il nostro Luca Dini, come le borse delle donne. Che a un certo punto per metterle in ordine puoi fare solo una cosa, le devi rovesciare tutte quante. La riforma è come una borsa che a un certo punto devi rovesciare a testa in giù. Bella devi questa cosa, cioè vuoi il cambiamento violento come... No, l'ha detto Renzi, cioè che ci vuole una rivoluzione. Il violento di Renzi è stato subito interpretato, violento. Noi stessi abbiamo fatto il titolo ieri, in realtà... Il violento stava siamo rapidi, il senso era questo, no? Cambiamenti non violenti non sono cambiamenti. Infatti. Cioè pensava la borsa da rovesciare. Bella questa immagine, però. Ma non avete idea. Voi chiedetelo alle vostre. Quante volte rovesci una borsa? Chiedete a Miriam Lucchetti quante volte si rovescia la borsa per riuscire a trovare una cosa, però poi la rimetti a posto. Miriam, non so, cerca con i gesti di farmi fare un gesto emblematico, come dire, abbastanza. Fa il gesto proprio, sei le braccia in su e giù. Tipicamente femminile. Era molto poco femminile, mi sembrava agitasse un panno steso, però, perché poi in quel momento diventiamo come dei vecchi alpini e qui viene l'omaggio di Terpescatino, insomma diventiamo omoni. E comunque questo è in tutto questo siamo in guerra, ma prima volevo partire da questa notizia. Allora, sui giornali c'è questa notizia: il Papa ha preso una decisione a suo modo storica. Devo fare una premessa: quest'anno in vacanza ho preso l'International Herald Tribune in aereo, l'ho letto e ho letto una storia che mi aveva sconvolto, quella dell'arcivescovo poi ridotto allo stato laicale Veslovsky, che era il nunzio, cioè l'ambasciatore del Vaticano a Santo Domingo. Ho letto questa storia di abusi sessuali sui minori, ma sconvolgente. L'International Herald Tribune ha fatto una pagina, dice, e io mi chiedevo, ma come può essere questa persona libera perché era in Vaticano? Ieri il Papa lo ha fatto arrestare, è agli arresti domiciliari, è una decisione di una portata storica. Paola, si può dire Dio benedica il Papa? Certo che si può dire. Si può dire, bene, lo dico. Ma io l'avevo letta quest'estate e ho detto, ma non è possibile che una persona del genere, persona del genere sia libera. E il Papa Francesco, lo ha fatto arrestare. Ora, sempre si discute, sì, ma a Santo Domingo le autorità chiedevano che venisse portato a Santo Domingo per essere processato. Ha fatto delle cose, secondo l'accusa, terribili, vi assicuro. Andatevi a leggere l'International. Andatela a leggere, si trova. Una storia scritta, tra l'altro, da una giornalista italiana per l'International Tribune, veramente sconvolgente. Vabbè, Luca, che ne dici? Anche da qui passa la rivoluzione. Il Papa la sta facendo in Vaticano? I cambiamenti sono violenti, appunto. Dopo decenni di, si può dire, omertà, perché solo 20 anni fa una cosa così, o 10 anni fa non sarebbe successa, perché poi bisogna dire le cose, cioè il Vaticano così è stato. Questo è un cambiamento violento, cioè la legalità è la ragione che arriva finalmente a far fare delle cose sensate. Questo sì, c'è da dire che oggi sui giornali è pieno di cronache del passo storico, perché è la prima volta che succede questo, ma le leggeremo in rassegna stampa. 24 mattino. Ma guarda, Renzi, che i 1000 giorni sono già iniziati. Quando è che passerai a dire invece che faremo, diremo, disferemo, abbiamo fatto, stiamo facendo, facciamo oggi e facciamo domani? Ascolta Milan, è inutile che voti PD pensando che una volta era il Partito Comunista. È come trombarsi una vecchia pensando che da giovane era una gran figa. Se si parlasse così tanto delle pensioni d'oro e dei vitalizi che si danno da anni, decenni e che si diranno ancora, che sono diventati diritti acquisiti, come si parla dell'articolo 18, secondo me si risolverebbe qualche problema. Io sono arrabbiatissima perché mi trovo a 59 anni a sapere che i versamenti che ho fatto da quando lavoro, che ne avevo 17, non verranno utilizzati come chi è andato in pensione qualche anno fa, perché adesso che hanno cambiato il sistema del pensionamento, io mi troverò a prendere molto meno e andare in pensione più tardi. Senti, volevo consigliare a Renzi di fare invece la riforma dell'articolo 18, la riforma delle coppole di minchia. Sicuramente tre quarti del Parlamento andrebbe a casa, lui compreso. E poi non ne posso più di questa politica. E anch'io sono della Juve. Buona giornata, dottor Milan. Vabbè, cara signora, ci sono dei dottori ottimi. Un po' volgarotto oggi la segreteria, ma quella parla sulle coppole di minchia. Le coppole, secondo me, non era diciamo così, era un toscano non tifoso. Sì, sì, sì. Era sì. Questo, no, la telefonata della signora che dice che fa versamenti dall'età di 17 anni, sì. Quando eccetera. Quelli sono i veri drammi, quelli sono, io devo dire, nella segreteria telefonica c'è tanto sfogo, tante cose, ma ogni tanto ci sono degli spaccati di vita reale, purtroppo anche spesso di storie di sofferenza, di fatica, di... E noi raccogliamo tutto e insomma diamo voce per quanto possiamo, anche se poco, in questa segreteria. Intanto ragazzi, siamo in guerra nel senso che ma io non sono uno di quelli che si impressiona se vede un terrorista dire spezzeremo le croci, renderemo schiave le vostre donne, conquisteremo l'Occidente. Ma ci sta nei proclami, purtroppo, di questa mente bacate, ci sta. Però Luca Dini, tra l'altro, oggi lo cito perché su Vanity Fair c'è un bellissimo servizio di un ex agente segreto dell'ISIS, cioè questo Stato Islamico, che svela come sono fatti. Lo leggerò certamente, ma cioè come avete fatto a trovare questa persona? È un meccanismo abbastanza complicato, perché insomma alla fine è una persona che vive braccata e pensa di essere uccisa e molto probabilmente lo sarà. Cioè ha tradito praticamente l'ISIS. È in Turchia, nella zona di confine, che non è una zona sicura in realtà. E dice cose impressionanti, soprattutto alla luce di quello che sta succedendo. Lui dice, è convinto che gli attacchi avranno l'unico effetto di far sostenere l'ISIS anche a una parte di islamici cosiddetti moderati. Qui adesso noi ne parleremo alle 8:15, abbiamo il generale Cabigioso, abbiamo il sottosegretario agli esteri della Vedova, sì, questa è sempre la questione, che fare, attaccare, non attaccare, Paola Saluzzi, questo è, tanto lo segnalo su Vanity Fair, leggetelo, perché è davvero uno che da dentro l'ISIS racconta che cosa pensano queste persone che vedono nell'Occidente il male, questo è il dato di fatto. Da leggere, io aggiungo da studiare, noi, insomma, chiunque faccia il nostro lavoro oggi se ne occuperà, e quindi anche lo farò anch'io, ma la cosa più preoccupante è capire quanta verità ci sia dietro queste affermazioni, perché sanno arrivare dove vogliono, e non deve scattare il terrore nelle persone, ma sanno arrivare dove vogliono, quindi ci deve essere davvero a questo punto un'azione omnicomprensiva, anche nel capire perché si sia arrivati fin qui, perché io credo che questo sia altamente importante, capire perché siamo arrivati fino a questo punto, in fretta, capire in fretta, senza fare troppe lucubrazioni, e poi innegabilmente agire. A me piace dire la battuta che mi è arrivata ieri da una nostra collega, tra l'altro una giornalista bravissima che vive al Cairo, Emilia Tersigni, che ci ha riferito quanto l'ha detto un tassista di Roma, cito: vogliono venire a Piastro, ma tanto trovano il raccordo anulare bloccato. Io l'ho trovata meravigliosa. Potrebbe finire qui, ma intanto l'ho trovata stupenda, perché come dire, cioè, No, beh, è emblematica, ma si può ridere anche di queste cose. Intanto Luca Dini, se mi fornisci privatamente il cellulare di Natalia Vodianova che trovo sulla copertina di Vanity Fair, ne faresti una cosa grata. Cosa c'è? Credo sia occupata, diciamo. Perché dovrebbe essere occupata? Cosa, solo perché è bella? No, chi lo sa? Lascia fare, la disoccupiamo. Va bene. Sfrontati, ragazzi, chiudo così, arrivederci. Siamo sfrontati. Ciao alle 3 su Sky, c'è Paola Saluzzi, alla prossima. Ma Renzi, tutta sta gnocca che c'è adesso nel PD, dove l'ha trovata? Su Twitter? Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. E allora alle 7:19 minuti, cari ascoltatori, eccoci qui. Con 24 Mattino siamo pronti a leggere i giornali. Oggi parleremo di questo attacco che c'è stato della coalizione capitanata dagli Stati Uniti, ma ci sono anche alcuni stati arabi che stanno colpendo da ieri notte, l'altro ieri notte, la Siria per sventare, così dicono in America, un attentato, attacchi che venivano pianificati dallo Stato Islamico nei confronti dell'Occidente. Siamo nuovamente lo siamo sempre stati in guerra? Ne parleremo alle 8:15, avremo ospite Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli esteri, avremo ospite il generale Carlo Cabigiosu, è un giornalista libanese esperto di Medio Oriente, Talal Krais, spesso in Siria. Intanto andiamo a sfogliare i quotidiani. Mercoledì 24 settembre, il Sole 24 Ore apre con una notizia in esclusiva, e che è un piano allo studio del governo secondo Sole 24 Ore, ed è questo: un piano del governo per il TFR in busta paga. L'ipotesi è quella, per 1-3 anni, di dare metà del TFR anticipato in busta paga ai lavoratori per rilanciare i consumi. Lo vedremo tra poco. Il Corriere della Sera, che da oggi, lo segnalo, è in versione tabloid, più piccolo, è la nuova edizione del Corriere della Sera. Questa è una svolta storica a suo modo per la stampa. Le bombe di Obama sui terroristi. Così Repubblica: Obama sferra l'attacco in Siria, sventato un attentato agli USA. Avvenire: Obama bombarda. La Stampa: stavano per colpire l'Europa, primi raid degli Stati Uniti in Siria. E anche Il Secolo XIX: attacco allo Stato Islamico. In prima pagina del giornale invece: Renzi senza maggioranza, la riforma del lavoro, 40 senatori del PD firmano 7 emendamenti contro la riforma. Mentre Libero ha questa notizia: casta non mangia casta, i giudici vietano di tagliare i super stipendi della Camera. Questo è il titolo di prima pagina, lo vedremo tra poco, ma parto dal titolo del Messaggero, perché quella che è avvenuto ieri in Vaticano è una svolta a suo modo storica. Il Papa fa arrestare l'arcivescovo. Questo è il titolo di prima pagina del Messaggero. Per la verità, l'arcivescovo in questione è un arcivescovo che è stato ridotto allo stato laicale già da qualche tempo. Si tratta dell'ex arcivescovo, dunque, Józef Wesłowski, polacco, che è stato nunzio, dunque ambasciatore del Vaticano nella Repubblica Dominicana, Santo Domingo. Io, prima l'ho detto anche alle 6:30 quest'estate, ero incappato in questa storia leggendone uno straordinario e increscioso per i contenuti reportage dell'International Herald Tribune, che raccontava la storia delle accuse di abusi sessuali su minori compiuti appunto dall'arcivescovo Wesłowski quando era nunzio a Santo Domingo. Una storia raccapricciante. Mi chiedevo: ma come può un uomo del genere essere con queste accuse libero? Il Papa ieri, come racconta Carlo Marroni a pagina 19 del Sole 24 Ore, ha deciso con il suo sì di dare il via all'arresto in Vaticano, arresti domiciliari per l'arcivescovo Veselovskij. È il primo intervento radicale di Papa Francesco in tema di lotta alla pedofilia dentro la Chiesa, racconta Marroni. E dai contorni clamorosi. Ieri in Vaticano è stato arrestato l'arcivescovo Josef Veselovskij, già nunzio apostolico della Santa Sede nella Repubblica Dominicana, da tempo sotto inchiesta penale da parte della magistratura vaticana, sanzionato da parte delle autorità ecclesiastiche. Il portavoce vaticano Lombardi ha detto la gravità degli addebiti ha indotto l'ufficio inquirente a disporre un provvedimento. L'iniziativa assunta dagli organi giudiziari dello Stato è conseguente alla volontà espressa del Papa affinché un caso così grave e delicato venga affrontato senza ritardi, con il giusto e necessario rigore, con assunzione piena di responsabilità da parte delle istituzioni che fanno capo alla Santa Sede. Parole chiare, scrive Marroni, azioni nette su una vicenda dai lati oscuri e che ha messo in luce uno spaccato di comportamenti che avevano fatto scattare indagini da parte della Repubblica Dominicana. Tra l'altro questa notizia, che è su tutti i giornali, alcuni ci aprono come Il Messaggero, è commentata per esempio da Monsignor Mogavero, intervistato da Repubblica. Monsignor Domenico Mogavero è già sottosegretario della CEI e oggi è vescovo a Mazara del Vallo, e dice: il Papa non vuole compromessi, c'è un primo giudizio di colpevolezza a carico del nunzio Veselovskij. Bergoglio intende andare fino in fondo, tant'è che per evitare fughe o irregolarità impone il fermo in Vaticano. Certo, su questo poi si potrebbe discutere. Sull'International Herald Tribune, per esempio, c'era scritto che l'arcivescovo Veselovskij, che era indagato dalle autorità locali a Santo Domingo già da un anno e mezzo, è stato fatto rientrare un anno fa appunto in Vaticano, e quindi non è stato consegnato certamente alle autorità locali a Santo Domingo, dove con quelle accuse avrebbe rischiato il carcere sicuramente. In ogni caso è una scelta e una decisione storica, come segnalano i giornali. L'arcivescovo, anche se in stato laicale, arrestato per volontà del Papa. Veniamo invece a due cose che mi hanno fatto un pochino arrabbiare, leggermente arrabbiare. L'apertura di Libero è questa, ce ne siamo occupati anche noi tante volte, il tentativo di porre un tetto di 240.000 euro anche ai dipendenti di Camera e Senato. È un tentativo che la Presidente Boldrini, l'ufficio di Presidenza, sta cercando di mediare con le N sigle sindacali dei dipendenti della Camera. Ma racconta Libero con Franco Bechis che è arrivata una diffida. Una diffida da parte della magistratura del lavoro alla presidente della Camera, Laura Boldrini, al collegio dei questori, ai membri dell'ufficio di presidenza. La magistratura del lavoro ha dato questa diffida su ordine, dopo che si era rivolta a lei l'OSA, che è uno dei sindacati autonomi dei dipendenti degli organi costituzionali. Nel testo della diffida si intima ai membri dell'ufficio di presidenza di non procedere all'approvazione di un documento attraverso cui si accoglie, sia pure in forma diversa, anche dentro i palazzi della politica, il tetto da 240.000 euro lordi l'anno che il governo Renzi ha messo per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. Avete capito? La magistratura del lavoro, i giudici vietano di tagliare i super stipendi. Su richiesta di un sindacato che si è rivolto alla magistratura arriva l'avviso preventivo, l'intimazione a non tagliare gli stipendi. Vabbè, voglio rimanere su Libero, perché Libero e anche il giornale, per la verità, raccontano questa vicenda che ha per protagonista un jeep friulano Francesco Florit, il quale nelle motivazioni di una sentenza scrive, in un'ordinanza scrive così: due punti, aperte virgolette, i banditi stranieri vengono in Italia perché sanno che qui la fanno franca. E voi dite: beh, c'è arrivato il giudice a dirlo, noi lo potevamo constatare tutti i giorni. Ma il dato di fatto è che quando lo scrive un giudice, un GIP, in un'ordinanza, in un provvedimento ufficiale, la cosa diventa ancora più Abnorme. La resa del Jeep. Ordinanza shock, scrive Cristiana Lodi. In Italia gli stranieri rubano perché sono impuniti. È una vicenda che riguarda 5 moldavi che sono stati arrestati. Nel provvedimento, udite udite, Francesco Florit scrive questo: volete sapere perché questi criminali si fanno migliaia di chilometri e vengono proprio nel nostro paese a compiere ruberie e altri reati? Perché questi signori sono convinti che da noi, se mai ti beccano, fai un patteggiamento e ti rimettono in libertà. Tradotto, scrive Libero, sanno che in Italia, usando ancora le parole del giudice, la giustizia non è efficiente. Il sistema è tale che dopo poco si è rimessi in libertà e si può ricominciare come prima. Rispetto a tali condotte, di cui ormai si legge nella cronaca con frequenza allarmante, è necessario adottare la giusta severità, trattandosi di comportamenti gravi e irrispettosi dei diritti altrui. Parola di Jeep. A proposito di questo, c'è sotto l'articolo che vince il premio Mani sul volante per l'articolo che ci fa più incazzare questa giornata, ed è l'articolo di Alessandro Gonzato. Siamo sempre su Libero. Troppo ubriaco per l'alcol test, il tribunale lo assolve. È la vicenda di un cittadino serbo che è stato fermato, non è riuscito a soffiare nell'alcol test, da tanto era ubriaco, per questo è stato arrestato, ovviamente perché era ubriaco e guidava in questo stato, ma la legge ha giocato a suo favore. Perché la legge impone che si misuri il tasso di alcol. E se uno, come dire, è ubriaco marcio, è ubriaco fradicio e non riesce neanche a soffiare per l'alcol test, non è stato fatto l'alcol test. E quindi la legge ha questo gap, questo problemuccio. Avete fatto l'alcol test? No, era ubriaco fradicio. Mi dispiace, dovete lasciarlo libero. Questo succede in Italia. Evviva, evviva, evviva. Parmilan, Radio 24, questa breve poesia, stranzeme culet nama bote e così sia. E dico Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, ci sono tante notizie oggi sui giornali molto interessanti che vi vorrei dare. Allora, l'apertura del Sole 24 Ore. A quanto risulta al Sole, raccontano Marco Mobile e Marco Rogari, a pagina 3 c'è un piano allo studio del governo per rilanciare i consumi. Il piano è questo: trasferire subito il 50% del TFR, cioè delle liquidazioni, nelle buste paga dei lavoratori, lasciare l'altra metà alle imprese, almeno per un anno. O forse più probabilmente per 2 o 3 anni, cominciando dai dipendenti del settore privato. Insomma, un'anticipazione del TFR in busta paga. È un piano, secondo quanto risulta al Sole, che sta maturando nelle logiche degli uffici del Ministero dell'Economia. La scelta spetterebbe comunque sempre al dipendente, cioè se accettare o meno il 50% del TFR subito, oppure se tenerlo, come dire, accantonato per la liquidazione. E per evitare una crisi di liquidità, le imprese potrebbero trattenere l'altro 50%, resta da sciogliere il nodo però sulle compensazioni. Questo è un'anticipazione che il Sole 24 Ore dà, molto interessante se confermata. Che ne pensate? L'anticipo del 50% del TFR. In tutto questo si discute di riforma del lavoro. Allora, si sono contati, scrivono almeno il giornale, il Fatto Quotidiano, i dissidenti nel PD, soprattutto al Senato, dove la riforma del lavoro approda. Sarebbero 40 i dissidenti del PD alla riforma del lavoro. Il giornale la mette così: Renzi non ha la maggioranza sul lavoro. Certo, poi queste cose sono dinamiche che di giorno in giorno cambiano. Comunque, la minaccia dei 40 dissidenti del PD. Ieri Bersani ha di martedì con Floris ha detto: Renzi governa col 25% che ho preso io, quindi mi deve rispetto che ho preso io, che ha preso il PD quando era candidato Bersani. E vabbè, ne vedremo delle belle. Intanto il ministro dell'economia Padoan fa due interviste oggi, due interviste, una ad Avvenire e una a Repubblica. Ad Avvenire, intervistata da Eugenio Fatigante e Arturo Celletti, due pagine di intervista che trovate a pagina 6 e 7. Il titolo è questo: bonus anche alle famiglie? L'estensione è difficile. È un Padoan che parla a tutto campo, parla di una nuova Italia, parla di questi mille giorni che definisce mille giorni di lavoro, non certo mille giorni di promesse. Le promesse sono già state fatte, ora dobbiamo mantenerle e applicarle. E Squinzi, cioè il presidente di Confindustria, dice meglio 700 giorni. Se le imprese credono, risponde Padoan, e dovrebbero farlo, che queste riforme cambieranno il sistema, possono accorciare loro i tempi. Serve più fiducia. Se io credo nel futuro, mi comporto come se fossi già nel futuro. Ci credano, ne approfittino subito, anticipino gli investimenti. Alle imprese dico: credete nell'Italia, le aspettative si autorealizzano. Fatemi dire una cosa: in Italia a volte ce la mettiamo tutta per smentire noi stessi. L'elemento che frustra più di ogni altro gli entusiasmi è pensare che le cose possono cambiare e poi vedere che chi ti sta accanto fa il furbo provando ad aggirare le nuove regole. Poi però Padoan parla di questa cosa degli 80 euro, confermando li renderemo stabilizzati. Ma sentite cosa dice. Intanto li metteremo stabili, bisogna aspettare e vedere i risultati. Sì, ma la scossa attesa sui consumi non c'è stata. La risposta del ministro dell'economia è questa: non abbiamo mai pensato a una scossa. Viviamo in una situazione di profondo disagio in cui molte famiglie con redditi medio-bassi hanno avuto in questi anni problemi di bilancio in termini di bollette non pagate, erosione di risparmi. Quindi, come prima cosa, anche a causa del clima di recessione, si pensa a ricostituire il bilancio delle famiglie, e questo sarebbe avvenuto anche in altri paesi europei. Ma Padoan parla così ad Avvenire. Poi a Repubblica dice anche: la priorità dell'Italia non è ridurre il deficit, e manda questo messaggio all'Europa e alla BCE: tagliare il debito sarà difficile. Così il ministro dell'economia Padoan in queste due interviste. Parla anche il ministro alla pubblica amministrazione, Marianna Madia. Per la mia generazione il reintegro è superato dai fatti. Intervistata dalla Stampa da Francesca Schianchi, dice Marianna Madia che è una riforma assolutamente di sinistra, quella del mercato del lavoro. Assolutamente sì, una riforma molto attesa da tutte le persone che in 20 anni hanno aspettato diritti mai arrivati: salario minimo, diritto alla maternità per tutte, ammortizzatori sociali per chi perde il lavoro. Sulle risorse per gli ammortizzatori Fassina dice ne servirebbero 4 miliardi, potrei rispondere che non l'ha fatto nessuno prima di noi, non sono ancora in grado di quantificare con esattezza le risorse che servono, ma ci sono, dice Marianna Madia. E poi sull'articolo 18, come ha detto il ministro Poletti, per i discriminatori è evidente che rimane, ma il punto è un altro: obiettivo della legge è dare diritti a chi non li ha. Miglioreremo la situazione di tutti, non ci sarà nessuno che potrà dire prima avevo questo, ora non ce l'ho più. E sulla minoranza del PD in rivolta, poi bisogna vedere se è minoranza, dice Marianna Madia: ho letto la dichiarazione di Cesare Damiano, non possiamo creare un doppio regime. Ma oggi che regime abbiamo? Altro che doppio, dice il ministro Madia, ci sono decine di contratti. Però attenzione, su Renzi cala oggi un editoriale molto duro. L'editoriale lo firma Ferruccio De Bortoli, è il direttore del Corriere della Sera. Corriere della Sera oggi in nuovo formato tabloid. Non scrive molto spesso De Bortoli, ma sentite oggi che cosa scrive di Matteo Renzi in prima pagina del Corriere. Intanto precisa: devo essere sincero, Renzi non mi convince. Questo è l'esordio di Ferruccio De Bortoli. Non tanto per le idee, il coraggio, apprezzabili, quanto per come gestisce il potere. Una personalità egocentrica è irrinunciabile per un leader, ma quella del Presidente del Consiglio è ipertrofica. Renzi ha energia leonina, ma non può pensare di far tutto da solo, e la sua squadra di governo in qualche caso è di una debolezza disarmante. Si faranno, si dice, il sospetto diffuso è che alcuni ministri siano stati scelti per non fare ombra al Premier. Il dissenso del Rio è guardato con sospetto. Il ruolo del ministro dell'economia Padoan, ottimo, è svilito dai troppi consulenti di Palazzo Chigi. Un profluvio di tweet non annulla la fatica di scrivere un buon decreto. Circondarsi di forze giovanili è un merito, ma lo è meno se la fedeltà fa premio sulla preparazione. E se addirittura è prevalere è la toscanità, il dubbio è fondato. E ancora non ha finito, eh? Sentite cosa arriva quando arriva a parlare del patto del Nazareno Ferruccio De Bortoli. Il patto del Nazareno, che finirà per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, forse a inizio 2015, beh, sarebbe opportuno conoscerne i reali contenuti, liberandolo dai vari sospetti, riguarda anche la RAI, e non ultimo, dallo stantio odore di massoneria. Buon lavoro di squadra. Così si conclude l'editoriale di Ferruccio De Bortoli. Caro Mauro Meazza, in un gergo calcistico amato dal mio amico su Twitter, non leggerlo, la tocca piano oggi Ferruccio De Bortoli. L'appoggia delicatamente. L'appoggia delicatamente. Diciamo. Massoneria, ego ipertrofico, insomma, i ministri inadeguati. Solo buone parole. Io posso, non voglio assolutamente mettermi nel solco del direttore De Bortoli, ma volevo dire, anche noi però su Sole 24 Ore dovremmo trarne la conclusione che deve anche fare questo pellegrinaggio da 20 e passa chilometri. Infatti, sui debiti della pubblica. Sono un po' in imbarazzo, ma insomma te lo voglio dire, guarda, abbiamo rifatto questi conti di questi debiti della PA pagati e non pagati. Insomma, sul Sole 24 Ore di oggi spieghiamo che sono stati pagati al 55%. Poi non lo so, tutto è opinabile, figuriamoci se non sono opinabili i numeri. Però pare che Bruno Vespa ha detto che andranno in pellegrinaggio tutti e due, perché tutti e due sono convinti di aver vinto la scommessa. Ok, va bene, allora ci sarà questo pellegrinaggio, noi lo aspettiamo. Scusa, vado un po' di fretta perché devo leggermi tutto il dossier che oggi diamo col Sole 24 Ore sulla TASI, e quindi siccome devo studiare attentamente, oggi ci sono tutte pagine con il Sole 24 Ore dedicate proprio alla nuova imposta, e quindi devo studiare, devo aggiornarmi molto attentamente prima di fare qualche pasticcio. Ti consiglierei di fare lo stesso. Ti ringrazio, come sai, era un velato messaggio. Era un velato messaggio, perché poi guarda che interrogo. Adesso adottiamo questo nuovo testo che trovi oggi con il Sole 24 Ore, ma poi vedrai che ci saranno anche le interrogazioni alle mattine successive. Del TFR so che già hai detto. Sì, quindi... tra l'altro il grande Ettore, che ci manda sempre un messaggio, dice: la Madia dice che i fondi ci sono, il 50% del TFR è di Meazza. Questi sono i fondi per gli ammortizzatori sociali, il 50% del TFR. 4 miliardi sarebbero quelli che più o meno servono. Sì, 50% del TFR. No, ma allora me la cavo anche con un 30%. Sto largo, posso mettere anche qualche cosa per un altro fine. Sì. Senti, già che intanto la TASI studiala, non ti faccio domande oggi, guarda che torniamo sulla questione del rent to buy, che è molto interessante, questa cosa di poter pagare i canoni di affitto, ma in realtà acquistando man mano la casa. Ne parliamo ancora, indovina un po' in quali su pagine. Norme e tributi. Esattamente, e allora che te lo dico a fa? Milan chi? Devo ringraziare Daniela che mi scrive al 349-238-6666 dalla provincia di Udine per la notizia del Jeep Florit, no? Quello che ha scritto: gli stranieri qua fanno quello che vogliono, tanto sono impuniti, in sostanza. Ieri è stata pubblicata dal Messaggero di Udine, e quindi insomma diamo al Messaggero di Udine ciò che è del Messaggero di Udine, ma io non lo ricevo, e quindi... però ha fatto bene Daniela a segnalarmelo. Intanto Donato Bruno, colui che è stato impallinato varie volte per l'elezione alla Consulta da parte del Parlamento, soprattutto dopo che è venuta fuori la notizia pubblicata dal Fatto Quotidiano che è indagato a Isernia, Donato Bruno fa oggi un'intervista proprio al Fatto Quotidiano, intervistato da Fabrizio D'Esposito, parla con l'orgoglio ferito, dico: sono dispiaciuto soprattutto per i vostri titoli, sto valutando se fare causa, vediamo che succede, forse con la Lega si sblocca qualcosa, perché la domanda è: ma lei non si ritira? Cioè il Fatto Quotidiano vuole che si ritiri dopo che si è scoperto che è indagato, ma vediamo, Berlusconi non mi ha ancora chiesto di ritirarmi. Ma lei è indagato, ma io non sapevo nulla, voi del Fatto mi volete cornuto e mazziato, eh? La procura non ha detto nulla, è rimasta in silenzio. Sono pure un avvocato e farmelo un colpo di telefono, no? Comunque il titolo è questo nell'intervista a pagina 2 del Fatto: tutta colpa vostra e dei giudici a orologeria, come dire, se non dovessi venire eletto alla Consulta, anche se il Fatto Quotidiano sempre titola Consulta Bruno affondato. Staremo a vedere. Intanto noi parleremo di questa vicenda dell'ISIS, le bombe sulla parte della Siria dove c'è lo Stato Islamico. Ne discuteremo dalle 8.15, quindi tra poco dopo il giornale radio delle 8, ma vi segnalo alcuni articoli interessanti. Il primo è di Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella. È una notizia che ha solo il Corriere della Sera, parla di una frode miliardaria per finanziare i terroristi. E sta indagando la Procura di Milano. L'ipotesi è che alcune aziende abbiano fatto un raggiro, aziende controllate da un pakistano soprattutto, un raggiro di 1 miliardo e 150 milioni di IVA rubati al fisco. Gli 007 dicono quel miliardo di euro è servito per finanziare i fondamentalisti islamici per il jihad. È una vicenda che raccontano Ferrarella e Guastella, pagina 6 del Corriere, affonda le radici nella ricerca di Osama Bin Laden, quando fu trovato in Afghanistan una miniera di informazioni che raccontavano di società che operavano tra Europa, Medio Oriente e Hong Kong per una colossale frode fiscale con una base a Milano, identificata in Imran Yaqub Ahmed, pakistano, 40 anni, con passaporto inglese, amministratore di una società con sede a Milano, SF Energy Trading SPA, sul quale appunto stavano indagando i PM milanesi, e che è sospettata di aver fatto questo raggiro di 1 miliardo di IVA, e dicono per finanziare il terrorismo islamico. Tra l'altro, a proposito di questo, io non è che sono uno che credo agli allarmi così, cioè che non metto le sbarre alle finestre perché sento dire un pazzo spezzeremo le vostre croci. Però certo, quando uno legge sul giornale l'articolo di Stefano Zurlo a pagina 15, il titolo è questo: così un terrorista sbarcato coi clandestini è scomparso nel nulla in Italia. Si parla, e lo fanno gli inquirenti, i poliziotti, di una persona di origine palestinese arrivata qualche settimana fa in Sicilia. Appena arrivata hanno notato gli 007 la barba folta, classico degli estremisti islamici, non di tutti ovviamente, molti musulmani hanno la barba folta, sono persone per bene al 100%, ma aveva anche un callo sulla mano che denuncia la tipica familiarità di mitra, dell'uso di mitra e fucili. C'erano tutti i presupposti per lanciare l'allarme, ma quando lo hanno identificato quest'uomo è fuggito, e racconta il giornale, di fatto è scomparso nel nulla in Italia. Ne parleremo alle 8.15. Segnalo, sono quasi in conclusione, che si difende, anche se non parla, l'ex amministratore delegato dell'ENI, Scaroni. Si difende nel senso che Dario Crestodina, su Repubblica, pagina 21, ne raccoglie gli umori per l'accusa, ovviamente, della maxi tangente in Nigeria. Dice: io non voglio parlare, non voglio dire una sola parola, ma non ho alcun problema, sono sereno. E poi Scaroni dice: stanno indagando su quello che è definito lo Scaroni Trust. È un qualcosa su cui i documenti ci sono i nomi di mia moglie, dei miei figli, sono i beneficiari del trust. Trovo tutto vergognoso, perché rendere pubblico tutto ciò può diventare pericoloso. Se qualcuno domani viene in testa l'idea di rapire uno dei miei figli, insomma, non pubblichino queste cose, credo che se no sarà una vergogna mondiale. Così si difende, sono dichiarazioni non ufficiali, ma racconta Repubblica, questo sarebbe l'umore di chi ha intercettato Paolo Scaroni in questi giorni riguardo a questa inchiesta. Siamo al momento conclusivo, la carta costa. È l'articolo più inutile scovato oggi sui giornali, è un'intera pagina del giornale della mia amica Eleonora Barbieri. Una pagina su perle, borse, tacchi, il potere è femmina e al suo stile, da Lady Diana alla Merkel a Naomi Campbell. i vestiti delle super donne. No, ti prego, no. Sydney, al centro di Sydney è crollato un grosso palazzo. Ci sono 757 morti. Tu ci stavi a Sydney nel palazzo crollato? No. E allora perché sei gazzetto? مطينو مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي تقدم كلمة للشيخ المجاهد Abi Mohammed al-Adnani al-Shami. Io non mi impressiono più di tanto se un terrorista, come è successo nel caso di Abu Muhammad al-Adnani, di cui sentite la voce, è considerato il portavoce ufficiale dello Stato Islamico, dice: conquisteremo la vostra Roma, spezzeremo le croci, faremo schiave le vostre donne. E in questo audio si invita anche a uccidere i miscredenti in qualunque modo. Ripeto, trattiamo questa vicenda senza allarmismi e senza terrorismi mediatici, uso anch'io questa espressione, però certo da un paio di giorni ci chiediamo tutti: ma siamo nuovamente in guerra? Oppure nuovamente, è anche sbagliato da dire, questa guerra asimmetrica contro il terrorismo, siamo sempre stati in guerra, da anni siamo in guerra, questa guerra non è mai finita. E ci si chiede anche se la soluzione siano i raid aerei che da due giorni, anche questa notte, badate bene, non gli Stati Uniti, ma una coalizione nella quale fanno parte anche stati arabi come la Giordania, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, il Bahrain, e questo Obama ci tiene a sottolinearlo, perché sono stati a prevalenza sunnita, come lo Stato Islamico sono sunniti. Ecco, è questa la soluzione, sono i raid aerei per sconfiggere, smantellare queste cellule del terrorismo? Dicono di sì dall'America quando dicono stiamo sventando dei possibili futuri attacchi. Come avete capito, cari ascoltatori, parliamo di questo. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, cerchiamo di capire cosa sta succedendo in questa escalation militare che c'è stata da due giorni in Siria. Lo facciamo con intanto un generale, il generale Carlo Cabigiosu, che è consigliere scientifico dell'Intelligence Culture and Strategic Analysis. Buongiorno generale. Buongiorno. È stato anche un generale che ha importantissime esperienze sul campo, dall'Iraq ma non solo, al Kosovo, e ha comandato anche tutto il comando operativo interforze, cioè le nostre missioni militari all'estero. Saluto anche un giornalista che per tanti anni è stato corrispondente in Italia del quotidiano libanese As-Safir, si trova a Beirut in questo momento, è grande esperto di Medio Oriente, di quell'area, è Talal Haris, che saluto. Buongiorno Talal e benvenuto. Tra l'altro molto spesso in Siria in questi anni, quindi ci può raccontare com'è davvero la situazione. Intanto generale Cabigiosu, mi ha colpito e mi permetta questa battuta, il premier Matteo Renzi ha detto: ci siamo anche noi nella coalizione dell'ISIS, ma noi rispettiamo le regole dell'ONU. Ma non è che l'Italia è sempre un po' così, come quella famosa battuta della donna mezza incinta? In effetti adesso non so con quali intendimenti l'Italia si sia affiancata alla coalizione, certamente che ci sono ampi spazi per le forze armate italiane per affiancarsi alla coalizione, come dicevo, lo può fare con le forze aeree come stanno facendo gli altri, lo può fare anche con l'intelligence, perché in quella zona siamo abbastanza attivi, quindi si tratterà di vedere qual è il tipo di apporto che l'Italia intende dare. Certamente ogni apporto ha un costo anche finanziario, oltre che se si va sul campo di possibili perdite di vite umane, e quindi tra le varie cose, queste due sono particolarmente importanti e bisogna considerarle. La domanda che si pongono, immagino tutti, anche i cittadini che in questo momento stanno andando ad affrontare le loro giornate, andando al lavoro, che magari hanno una sensibilità a capire: oh, ma che sta succedendo? È questa. È la risposta giusta? So che la domanda non è che prevede una risposta sì o no, ma è la risposta giusta questa degli attacchi militari mirati, dice gli Stati Uniti, contro il terrorismo islamico? Ma inizialmente può anche andare bene, perché da quello che stanno facendo le forze dell'ISIS in questo momento per raggiungere gli obiettivi che stanno raggiungendo, hanno senz'altro la necessità di raggrupparsi, quindi non è una guerriglia nel senso classico della parola, in cui le formazioni armate appaiono e scompaiono sul terreno mescolandosi con la popolazione. Qui si tratta di vere e proprie formazioni paramilitari, non strutturate bene come un esercito regolare, ma comunque che sono costrette per ottenere risultati sul terreno a concentrarsi. Questo dà senz'altro la possibilità alla sorveglianza del territorio fatta con satelliti, drones, intelligence sul terreno, forze speciali, eccetera, di individuare degli obiettivi che poi possono essere senz'altro colpiti dalle forze aeree. Però non appena questa tecnica di combattimento diventerà letale per le forze dell'ISIS, questi tenderanno di nuovo a sfarpagliarsi e a ritornare a criteri di combattimento più vicini a quelli della guerra regolare. Ma infatti su questo poi tra poco sentiremo magari anche cosa ne pensa Tony Blair, ma tra un attimo. Prima l'ex premier britannico che ha rilasciato un'intervista su questo punto alla BBC. Vorrei allora coinvolgere Talal Khrais, che ci può aiutare a capire un po' di più quanto sia concreta questa minaccia dello Stato Islamico per l'Occidente e anche per l'Italia. Khrais. Io sono da 3 anni e mezzo in Siria, da quando è iniziato il conflitto. Certamente la situazione è cambiata molto. All'inizio erano dei ragazzi in piazza che manifestavano per la libertà e questo era giusto. Poi dal 2012 c'è stata una resa dei conti, vuol dire una alleanza tra Stati Uniti, Arabia Saudita e i paesi del Golfo che volevano confrontare l'Iran in Siria. Vuol dire fermare questa alleanza tra Siria e l'Iran, questo è l'inizio della guerra. Ora io non posso essere veramente preso in giro, fa bene l'Italia a non partecipare perché questo è un gioco delle altre e l'Italia non è in grado di farla, perché l'Italia, i grandi uomini che c'erano prima che sapevano giocare oggi non ci sono più, forse c'era Emma Bonino fino a poco fa, l'hanno tolta e allora il resto non so che cosa dire. Io vorrei dire una cosa: prima di combattere il terrorismo bisogna togliere le retrovie dei terroristi. 80.000 salafiti, jihadisti che sono venuti, ora si dice che gli europei sono 3.000, io vi confermo che ci sono 4.000 europei nelle prigioni siriane, io ve lo posso confermare. Cioè, questi europei chi sono? Sono persone che sono andate a combattere? Dal Belgio. Dalla Francia, dalla Germania. Ci sono anche dall'Italia? Dall'Italia ci sono circa 80 persone. Cioè, mi faccia capire, ci sono 80 persone che dall'Italia sono partite per andare a fare, diciamo, la guerra santa o comunque per fare il jihad lì in Siria? Sì, i siriani non vogliono rivelare a nessun servizio di sicurezza perché loro legano, giocano questa carta per ripristinare i rapporti diplomatici. Dice, come voi avete rotto i rapporti diplomatici con noi, quando ripristinati i rapporti diplomatici parliamo anche. Ma mi scusi, Khrais, sono cittadini anche di nazionalità italiana o sono partiti semplicemente? Sono persone convertiti italiani e ci sono arabi, in particolare dei paesi del Maghreb, che sono cittadini italiani di origine araba. Ma io vorrei parlare delle cose che voi state parlando in questo momento. Quando in Turchia, no, per scambiare 47 prigionieri, no, la Turchia non è intervenuta. No, non è intervenuta perché la Turchia è l'ISIS. Guarda che i servizi turchi, i generali turchi prendono doppio stipendio, un stipendio dell'ISIS e un stipendio dell'esercito dell'esercito turco. L'altro giorno, sotto i nostri occhi, 49 carri armati sono stati forniti dalla Turchia all'ISIS per occupare questi villaggi curdi che resistono da 3 anni e combattevano. Ma guardi, da 3 anni. Tra l'altro, Talal Khrais, dopo le 8.30, dopo la pubblicità, avremo ospite anche il sottosegretario agli esteri, Benedetto Della Vedova. Quindi io tengo questa sua testimonianza e questo che ci ha detto, cioè che ci sono 80 persone, almeno un'ottantina in questo momento, nelle prigioni siriane partite dall'Italia, alcuni anche italiani convertiti che sono lì. Lo chiederemo ovviamente al sottosegretario Della Vedova, col quale potrà parlare anche tra poco. Però l'aspetto rispetto, generale Cabigiosu, perché Obama ha voluto sottolineare che ci sono appunto gli stati arabi che ho citato prima che fanno parte di questa coalizione? Questo a dire insomma, che non siamo noi contro loro, noi Occidente contro l'ISIS, ma ci sono anche gli stati arabi preoccupati. Senz'altro la ragione fondamentale è proprio quella di evitare che si possa pensare che una nuova crociata degli occidentali contro il mondo islamico. Invece la partecipazione di questi paesi arabi dà un altro connotato alla coalizione, anche se tutto sommato non bisogna dimenticare che questa non è solo una guerra di una fazione islamista che vuole creare il califfato, ma è anche un contrasto interno fortissimo che c'è fra sciiti e sunniti. Infatti tutti i paesi che attualmente temono di perdere la loro supremazia nel campo religioso, come l'Arabia Saudita, che è il mondo punto di riferimento per il mondo sunnita, si sono messi contro l'ISIS, che vorrebbe distruggere anche l'Arabia Saudita. Fanno parte di questa coalizione. 24 mattino. Allora, siamo qui alle 8:36 minuti con il generale Carlo Cabigiosu, con Talal Rais, giornalista del quotidiano As-Safir, che negli ultimi 3 anni è stato spesso in Siria. A proposito, Rais, ci ha detto, ci ribadisce, sono un'ottantina quanto le risulta le persone convertite dall'Italia, partite, andate in Siria in questo momento nelle carceri siriane, no? Ci sono anche, come sa, dei nostri ostaggi, purtroppo, 2 cooperanti italiane e un gesuita, padre Dall'Oglio. Ha notizie, cioè che cosa si sa della loro sorte, Rais? Io, della mia esperienza, oramai, quando persone entrano nelle vie illegali tramite organizzazioni, per esempio ci sono stati 84 colleghi dei giornalisti che sono entrati in via legale, nessuno gli è successo niente, solo che questi colleghi che vengano tramite la Turchia e tutti quasi tramite la Turchia, prima tramite il Libano, oggi non c'è più per la possibilità perché Hezbollah controlla tutta l'area, allora vengano tramite organizzazioni che li vendono. Li vendono letteralmente, li prendono e li vendono. Sta dicendo che le due cooperanti sono state, come dire, sì. Come Domenico partito da Tripoli del Libano, è già stato venduto da Tripoli, è andato con l'esercito del Free Army e poi questi l'hanno consegnato a un gruppo salafita. Però, diciamo, cosa si sa, se lei sa qualcosa della sorte, insomma, No, questi sicuramente aspettano canali, che sicuramente si tratta, sicuramente che l'Italia sta trattando per loro. Ora, purtroppo che l'Italia ogni volta che paga un riscatto, i terroristi sono più incoraggiati di rapire altri. E questo, insomma, è il tema di cui si è molto discusso. Però saluto il sottosegretario agli esteri, Benedetto Della Vedova. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Della Vedova. Arriviamo anche a questa questione degli ostaggi, ovviamente. Prima però le vorrei chiedere come l'Italia partecipa a questa missione, a questa coalizione, perché il Premier Renzi ha detto lo facciamo ma nel rispetto delle regole dell'ONU, cioè non bombarderemo mai con i nostri aerei. Rispetto alle regole dell'ONU e delle procedure parlamentari eventualmente previste, ma come ha specificato in questi giorni il Ministro della Difesa Pinotti, il supporto che l'Italia sta dando è basato sulla disponibilità di un aereo di rifornimento in volo e la disponibilità di addestratori, se vi saranno altre esigenze si valuteranno le risposte da dare anche in base al quadro che si delineerà meglio, certo, nelle prossime giornate. Senta, lei come commenta questi raid? È un'escalation che si aspettava? È la strategia giusta? O si rischia, come dire, di rendere il terreno più fertile per nuovi rischi di radicalizzazione? Io credo che l'esperienza ci ha insegnato ad essere prudenti nella valutazione degli effetti di queste iniziative, anche valutando sicuramente errori che in passato sono stati fatti, dopodiché però di fronte, perché io sento a volte, non in questa trasmissione, a volte che insomma alla fine la colpa di tutto, la responsabilità di tutto è chi è intervenuto bene o male, è intervenuto tardi, è andato via troppo presto. Dobbiamo tenere presente la realtà effettiva della minaccia dell'ISIS, che, e questa è una novità importante e che quindi forse può cambiare anche rispetto alle esperienze passate. L'esito della vicenda è diventata una minaccia cogente anche per moltissimi paesi arabi, addirittura alcuni dei paesi che in passato erano più o meno velatamente accusati che infatti partecipano. E perfino la Turchia, di cui si parlava prima, poi ovviamente si può sempre fare, e dentro certi ambiti è anche comprensibile che chi fa un mestiere diverso dal mio faccia anche il processo delle intenzioni, però Erdogan ieri in queste ore ha offerto il proprio supporto logistico e militare agli Stati Uniti. Ma perché prima appunto Tal al-Khris ci ha detto una frase molto molto stringente, cioè la Turchia è l'ISIS, insomma molto brutale. Però sottosegretario, le chiedo questo, ha sentito anche Tal al-Khris, e glielo chiedo perché la sorte degli ostaggi ovviamente è una sorte che ci è a cuore, ci sono due cooperanti, c'è un gesuita, questo almeno si sa, l'Italia tratta e l'Italia paga i riscatti, questa è l'accusa che viene fatta. Oh. Guardi, noi stiamo lavorando alla Farnesina con l'intelligence, quindi il Ministero anche degli Interni, come è stato fatto molte volte e con successo in passato, perché si arrivi al più presto a una soluzione positiva sia delle vicende che hanno semestri lunghi alle spalle, sia delle vicende più recenti, ma anche pagando se necessario. Ma guardi, noi stiamo, si lavora per trovare una soluzione e abbiamo dimostrato, l'Italia ha dimostrato, non questo governo, anche quelli precedenti, in passato di saper arrivare a una conclusione positiva della stragrande maggioranza degli episodi di questo tipo. Si lavora molto e si mantiene il dovuto riservo. Allora, ci ha detto anche Tal al-Khris che ci sono almeno un'ottantina di persone partite dall'Italia, convertite, che sono nelle prigioni siriane, ma il regime siriano, comunque le autorità siriane, non lo ammetteranno mai. Voi siete a conoscenza di eventuali presenze italiane o di convertiti italiani in prigioni siriane? Non lo ammetteranno, o come veniva sottolineato prima, che ho ascoltato un pezzetto della trasmissione, non essendoci di fatto rapporti diplomatici, non c'è comunicazione neanche, diciamo, di tipo ufficiale, governo su governo, nemmeno su queste cose. Sappiamo che questo è un problema vero, vale non solo per l'Italia, abbiamo visto, vale per la Gran Bretagna, vale anche, e questa è un ulteriore elemento di preoccupazione e che dovrebbe rendere sensibili anche le nostre opinioni pubbliche, penso a quella italiana per ragioni di vicinato, oltre ai proclami contro Roma, un problema che noi abbiamo molto vicino è che questo tipo di presenze e poi di ritorni vale anche per alcune aree dei Balcani vicinissimi a poche centinaia di chilometri dal nostro. Vorrei farvi sentire Tony Blair alla BBC. Lo ascolti, generale Cabigiosu, è in originale, ma insomma Tony Blair ha detto che l'ISIS è un gruppo brutale, sono pronti a morire senza nessun tipo di rimorso, e poi alla fine dice by air power, you can harry and hem them in by air power, but in the end you are also going to have force capability on the ground. Insomma, dice Tony Blair, per chi non capisce l'inglese, li puoi contenere via aerea, ma poi a un certo punto devi avere una certa capacità di intervenire via terra. Generale, che facciamo? Reinvadiamo in questo caso una parte della Siria? Ci ributtiamo sul terreno in una guerra strada per strada? Guardi, il discorso è piuttosto complicato, nel senso che per intervenire a terra bisognerebbe anche avere già una strategia di cosa sarà il dopo, perché noi andiamo lì a fare cosa? A sbandare questi gruppi che fanno parte dell'ISIS, Ma poi a chi restituiamo il territorio? Lo restituiamo all'Iraq di al-Maliki o del suo successore Haider, oppure la Siria la restituiamo ad Assad? I curdi e Peshmerga, dopo aver combattuto, vogliono un loro Kurdistan? Sono tutte domande alle quali bisogna tentare di dare una risposta prima di definire quale potrebbe essere l'intervento. E alle quali, ma aggiungo la mia opinione, ma vorrei anche la sua, credo che la politica le risposte non le dia, cioè non abbia bene in mente, e questo è il problema sempre delle pianificazioni militari, non abbia bene in mente che cosa possa succedere dopo, o sbaglio? Sì, ma forse sono io come militare che sto facendo questa osservazione, per cui i militari sanno bene che possono andare sul terreno, sconfiggere l'avversario per essere poi magari richiamati, come sta succedendo per l'Afghanistan e per l'Iraq, dopo un po' a rimettere le cose a posto perché ce ne siamo andati troppo presto. Quindi bisogna avere una strategia per quello che riguarda il futuro assetto di questa regione e ci vuole la partecipazione ovviamente delle popolazioni locali, non è che può essere deciso tutto sopra la loro testa. E a tavolino. Allora, molti ascoltatori, devo dire, Talal Khrais via SMS, e ha sentito anche il sottosegretario Della Vedova che l'ascolta, sono critici nei suoi confronti per il giudizio netto dato sulla Turchia. La frase che lei ha detto è: la Turchia è l'ISIS, che è una frase molto molto forte. Perché questa frase così tranchant, Khrais? Anche la politica estera italiana è superficiale. Oggi ci sono due elementi in questa cosa. La prima cosa, chi combatte il terrorismo è l'esercito siriano, Hezbollah e gli iracheni. Allora, invece di appoggiare questi, è l'esercito libanese. L'esercito libanese non ha un aereo per combattere i terroristi. Che facciamo? Appoggiamo Hezbollah, che sono considerati terroristi dall'Unione Europea. Non dico appoggiare Hezbollah, però se tu sei in battaglia, e allora devi fare alleanze con le altre, non è che l'esercito siriano combatte il terrorismo e tu vai a bombardarlo, allora ci vuole questo. Allora questa è la prima cosa. La seconda cosa, Siriano però non è stato bombardato, anzi Assad pare avesse dato l'assenso, diciamo. Poi sappiamo che i rapporti tra Assad e l'Occidente in questo momento sono tutt'altro che facili. Questo dico sì, però ci sono contatti indiretti e queste cose. Questa, la prima cosa è che l'esercito siriano da 4 anni combatte questi terroristi. Questi sono terroristi, sono entrati con l'appoggio dell'Occidente. Ricordi quando sono venuti a Roma, come il ministro Terzi ha detto, questi sono una democrazia, e gli stessi che combattono oggi sono quelli che sono venuti a Roma, sono allora, incontrato questo punto. La seconda cosa, sì, che voglio dire. No, ma questo punto voglio dire, Khrais, su questo, cioè che l'ISIS sia stato come dire incentivato inizialmente dall'Occidente, questo è un punto sul quale ha ragione ed è una verità storica. Continui. Sì, allora la seconda cosa, io se devo combattere il terrorismo devo fermarlo da dove è partito. 80.000 persone, dove sono entrati? Tutti i loro missili, da dove sono entrati? Sono entrati dalla Turchia. La Turchia è partner. La Turchia è partner dell'ISIS, partner perché le mafie turche sono all'esercito per i servizi. L'altro giorno, per poter conquistare questi villaggi curdi, sono stati sotto l'artiglieria curda. Allora andate nelle banche turche, andate a cercare, vedete i campi di addestramento in Turchia. La Turchia è la retrovia, prima fai pressione su un paese della NATO e poi fai a bombardare. Questo è un punto interessante, geopolitico molto interessante. Sottosegretario Della Vedova, ci dice Talal Khrais, è lì la frontiera fragile, sono lì le retrovie dell'ISIS, e la Turchia è quel paese appunto di cui si discute tanto dell'ingresso dell'Unione Europea, è la nostra porta verso l'Oriente. E allora perché non intervenire sulla Turchia prima che su altri? Ma io ripeto, sulla Turchia sto alle parole ufficiali di Erdogan. Sulla questione siriana, allora, ripeto quello che ho detto prima, io credo che sia giusto andare in profondità, valutare gli errori tattici, strategici che sono stati fatti, purché non ci si dimentichi che quello che si sta cercando di fare oggi è di bloccare l'avanzata di una forza armata, ormai un vero e proprio esercito, si diceva prima non guerriglia ma guerra organizzata, che va fermato, che ha compiuto atti di vero e proprio genocidio nei confronti dei cristiani e non solo. Sulla Siria, il ruolo dell'Italia, del governo precedente, ma non c'è stata discontinuità in questo, parlo di Emma Bonino, dei vertici, dei negoziati di Ginevra rispetto alla Siria, io credo che sia stato molto prudente sugli appoggi di chi si ribellava ad Assad. Io credo che si debba lavorare in questa direzione, sicuramente anche coinvolgendo la Turchia. Poi altra cosa è la vicenda Turchia nell'Unione Europea, sì, che è una vicenda decennale su cui si possiamo, sì, aprire, certo, un altro capitolo, poi alla fine cosa possa essere più utile anche in prospettiva storica più avanti e in termini strategici se avere un legame forte però, o no, con la Turchia. Io, sottosegretario, una cosa non l'ho capita, pur nel riserbo, questo l'ho molto capito, con cui si devono portare avanti i contatti. Noi abbiamo dei contatti almeno per la vicenda Padre Dall'Oglio e le due cooperanti, cioè almeno dei contatti avviati, sappiamo chi li ha, sappiamo dove sono e la situazione è tra virgolette sotto controllo, questo lo possiamo dire? Ma tutto quello che è possibile sapere lo sappiamo, perché l'impegno anche sul terreno è massimo. Cioè, e poi sulla questione degli 80 o delle persone partite dall'Italia e che sono nei carceri siriane, appunto, non lo possiamo sapere perché diplomaticamente non abbiamo relazioni, ma possiamo presumere che sia una cosa vera quello che il giornalista Tal al-Khrais ci racconta. Ma adesso sui numeri così precisi io non posso dire nulla, ma che questo fenomeno coinvolga anche l'Italia è più che possibile. Vorrei farvi sentire anche questa voce, la voce di John Kentley, è un prigioniero britannico in mano agli terroristi dello Stato Islamico. Hello there, I'm John Kentley, the British citizen abandoned by my government and a long-term prisoner. È colui che ha puntate in una costruzione quasi anche cinematografica, certo non di gran classe, magari di serie B, ma sta raccontando dal prigioniero con messaggi continui a dire: caro Occidente, aiutami, Cameron, fai qualcosa. Tal al-Khrais, questo è uno scatto nella comunicazione dello Stato Islamico, la gestione degli ostaggi in questa maniera? Io vorrei dirvi una cosa, sono stati rapiti 48 pellegrini libanesi sciiti, no? In Siria, sì. Hanno aspettato 2 anni per poter averli. I sciiti qui hanno preso 3 diplomatici turchi e hanno dato alla Turchia una settimana di tempo e sono stati liberati. Allora, il sottosegretario chiama l'ambasciatore turco e lo dice che devono essere liberati, perché queste loro armi, i loro soldi, il loro sostegno viene dalla Turchia e l'abbiamo visto con i nostri occhi. Io ero a Kasab quando sono entrati l'ISIS a occupare il villaggio armeno sotto l'artiglieria turca. Non c'è differenza. La guida della fratellanza musulmana sta in Turchia e la Turchia sta fornendo armi e tutto. La Turchia è l'ISIS. E quindi questo, insomma, è il punto che lei che ci tende a risottolineare. Dice a Benedetto della Vedova: rivolgetevi ad Ankara, ecco, per avere notizie. Come vedete la situazione è molto molto complicata, complessa, ma elaborata, e temo dovremo ritornarci, perché la situazione ovviamente è tutt'altro che tranquilla. Per il momento però mi devo fermare. Ringrazio Tal al-Khrais, che ci parla dal Libano, corrispondente del quotidiano libanese As-Safir. Grazie al generale Carlo Gabigiosu e grazie al sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova, con Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi in redazione, col nostro alpino Peter Bescapè in regia. Vi diamo appuntamento domani alle 6.30. Domani alle 21 c'è il live di Platone qui al Sole 24 Ore. I biglietti sono esauriti, ma saremo in diretta streaming su radio24.it.